我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费多拉》，由莫纳科费比沃、高比卡布奇里等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。 La principessa contessa vedova Roma Zos, quella vedova fredda, ricca, passabilmente 14 milioni. Salute! A tempo il po' più capo scaglio. Le donnine, le carte, le bottiglie, i cavalli, niente. Si stava freschi, si stava freschi, e non si ansolvi. Al maggiore, alla sposa, alla voce, a noi. Silenzio, ricapitato, no. La principessa su sveglia di Milone. Thank you. finalmente. La camera del conte. Palla di vino. Ferito. Principessa, sì. Dottore, una disgrazia, un assassino, conte, il conte, o bella. O medico, il nome non vero. Eccomi. Il signore, Giovanni di Sirie. Ma non questo. Ha detto all'ambasciata di Francia. La ringrazio. Tutto il farmacista è subito un prete. Slitta. Parla, parla, parla. Egli mi disse, andiamo al tiro. Andammo, attesi un quarto d'ora. Subitamente nel gran silenzio son due spari. Ascolto. Nulla. Più nulla, tranne lunghi latrati. Oh mio stupore! Forse innato spinto cancello, corre a sindacco, la bizzarra non c'è più. E poi, quel buon correndo, avrea lasciato sul

conosci il suo nome? Non lo mento. Vicino provo, sforzati, cerca. Cerca. Cerca. Non trovo. Cerca. Sciocco, e sono più in forse. È giorno di Natale, andrò sulla soglia, proloco con colonna. Seguono dall'una all'altra stanza. Lo cercano. Prendetelo. L'ombre si sono riunite. L'ho preso. Signora. La divina. Thank you. voi o per gli amici? Chi lo sa? Grazie! Grazie! Thank you. Hey!

io salgo, egli uscito, il servo mi lascia un istante, io porro al diretto, è bravo! E dice, ti attendo stasera alle 9. Thank you. pianto mio del thank you. attendo alcune lettere dirette a mia Parigi. Loris, ritorna presto. Subito, arrivederci. Son disceso all'albergo d'Inghilterra. Posso parlar di voi, salvo il biciclo. Ecco, mi cerco, trovo. Eccomi. Siete molto gentile, un fior di cortesia. Molto Ma fedora mia puttana

这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡夫奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Stasera alle nove. Io mi domando ancora. Come? Se tu mentissi! Dimmi lui che ancora! Che mi do la certezza! Lui stesso! Lo dimero! Ecco la prova! Leggi! Anima mia! La sua scrittura! Ella fuggì.